bello fusco a red in combinazione. Pussi liberano di tutta sta oppressione. Liberamola sta musica, sì, liberamola con questa canzone. Terror Rebel. Liberamola sta musica che viene dentro all'anima di tutta sta oppressione che tra le strade circola di tutti sti problemi che la gente ne fa ridere. Questa è musica vera, ma qua la sta a sentire. La dico no, ci sento reggae, no no no, so scoppiato. Tra dico no, no, tra dico no, ci canto reggae, no no no, so drogato, no no no no. Senti me bueno tu che qua me sta critichi. Io scrivo sullo melodie e tu me sta giudichi. E ci si meglio di me, fammi lo vedere. Lo microfono ti sta là su cupo e canta re. Ca ogni giorno che passa sta musica me rilassa e culo fusco la canto. E si ne sto contente. Tutti li tradi terroni che sentono sta canzone. Mo cantati con noi e non la spicciamo più. Questa è una bella situazione. Sì, ne? Cussetti lo ti regalamo emozioni. Emozioni. Questa è una bella situazione. Sì, ne? Con una base in un microfono facciamo canzoni. Questa è una bella situazione. Situazione. Cussetti lo ti regalamo emozioni. Questa è una bella situazione. Situazione. Con una base in un microfono facciamo canzoni. Liberamo la sta musica che viene dentro all'anima di tutta sta oppressione che tra le strade circola di tutti sti problemi che la gente ne fa ridere. Questa è musica vera, ma qua la sta a sentire. Sta musica era tanto è po' bello, guarda ma faccio parla a tempo. Quando parli io devo essere sempre attento, non dormendo al 7300. Fa tutti le pizze buone mi sento, quella mia mia trama ruggio nuestro. Quando canto e penso metto, cerco un falso con le parole. Non bombardamento, cari, batta sta aggressione. Ti bagnino con buoni genitori che non c'hanno mai avuto una buona educazione. Cane criticare e giudicare l'altro sempre alla prima occasione. Sentimi, combattere sta oppressione, che è la mia missione. Tra la musica cerco un rifugio, specialmente da qui di giorni. Cazzo brutto, senti l'effetto di super effetto duetto. Mo volumino la sta cantamo e lo volume mai facciamo. La musica assume il ruolo per la mente di lume. Fa scorrere milioni di emozioni, sembra un fiume. La musica assume il ruolo per la mente di lume. Fa scorrere milioni di emozioni, sembra un fiume. Liberamula sta musica che viene dentro all'anima di tutta sta oppressione che tra le strade circola di tutti sti problemi che la gente ne fa ridere. Questa è musica vera, ma qua la sta a sentire. E aderimeti la nostra canzone e la cantiamo professando l'opinione. La tradizione è tutto lo dialetto, ne permettono un picca di rispetto. Musica fatta di semplici parole, lumi me lo fusco tra cantano con amore. Con l'orgoglio di questa terra e vere emozioni fanno musica, musica, musica, sti tovaglioni. Liberamula sta musica che viene dentro all'anima di tutta sta oppressione che tra le strade circola tutti sti problemi che la gente ne fa ridere. Questa è musica vera, ma qua la sta a sentire. Liberamula sta musica che viene dentro all'anima di tutta sta oppressione che tra le strade circola tutti sti problemi che la gente ne fa ridere. Questa è musica vera, ma qua la sta a sentire.